in primo piano. Mercoledì 22 settembre, la vicenda Profumo assolutamente a conquistare le prime pagine dei giornali. Il Consiglio Unicredit sfiducia Profumo, questo è il titolo del Sole 24 Ore, ma un po' tutti i giornali aprono su questo: da Profumo si dimette alla resa di Profumo, senza Profumo per il Riformista, Profumo di caos per il Fatto. Questa è la notizia del giorno. Di rapporti di politica e banche, di questo parlerà anche Oscar Giannino alle 9. Io subito vorrei segnalarvi alcuni articoli. Non avevo mai pensato alle dimissioni, pagina 3 del Sole 24 Ore, la giornata di Alessandro Profumo che lascia la guida di Unicredit, tutta raccontata minuto per minuto da Alessandro Graziani. Tra l'altro finisce anche quando la moglie, alle 22, Sabina Ratti, la moglie di Profumo, annuncia di fatto che Profumo ha lasciato la liquidazione. Anche si parla di una buona uscita di circa 40 milioni di euro, di cui 2 saranno devoluti in beneficenza all'associazione di Don Virginio Colmegna. Perché Profumo ha tenuto duro fino alla fine, ha voluto che si votasse al Consiglio di Amministrazione Unicredit questa frase: ho solo preteso che l'operazione finisse con trasparenza e che emergessero le impronte digitali, ha commentato il banchiere a tarda serata con uno suo stretto collaboratore. L'unica a votare a favore di Profumo è stata Lucrezia Reichlin. Viene ricordata anche sul Sole 24 Ore chi è l'unico voto contrario alla revoca delle deleghe a Profumo: Lucrezia Reichlin, membro del Consiglio Scientifico di oltre 10 istituzioni internazionali, è stato l'unico voto contrario alle deleghe. Sono anche tantissimi i commenti e anche i tanti dubbi di Tremonti. Questa pagina 5 del Sole 24 Ore, addirittura il Corriere in prima pagina titola: Profumo sfiduciato, l'ira di Tremonti, un Tremonti che viene definito come colui che ha tentato fino all'ultimo di non cambiare, di evitare questo cambiamento ai vertici, con telefonate anche ai rappresentanti delle fondazioni che sono azionisti di Unicredit. Il pressing di Tremonti sulle fondazioni, un errore cambiare, la banca sia stabile, questa è stata la linea del ministro Tremonti secondo le varie ricostruzioni. Anche il Corriere della Sera racconta la giornata di Profumo con lo sfogo: non mi sono ancora dimesso, dice a tarda serata. Insomma, un drammatico confronto, scontro in consiglio di amministrazione. I commenti, come detto, sono anche critici. Paolo Bricco, per esempio, in prima pagina del Sole 24 Ore dice: ogni impresa ha diritto a cambiare il proprio management in qualunque momento, ma ciò che fa paura del blitzkrieg teutonico padano non è costituito dalla fretta ma dalla furia. C'è qualcosa che stride, lo strappo violento che gli azionisti tedeschi italiani hanno scientificamente prodotto nelle ultime ore sono un cattivo esempio di governance. Addirittura più esplicito, Francesco Giavazzi in prima pagina del Corriere della Sera firma il fondo dal titolo: un errore grave. Il vero scontro che oppone Profumo ai grandi azionisti della banca è la sua decisione di trasformare Unicredit da una somma di feudi locali in una struttura unica, come lo sono le grandi banche, più efficiente, con costi inferiori, in grado di offrire ai propri clienti credito e servizi a condizioni più favorevoli. Per creare una banca unica è necessario però smantellare tanti piccoli feudi. Ed ecco la critica di Giavazzi: i politici della Lega non sono diversi dai vecchi democristiani. Loro controllavano il territorio attraverso le casse di risparmio e le municipalizzate. La Lega mi pare sulla stessa strada. Ed è proprio la Lega che è sotto accusa, con il responsabile anche economico della Lega, Giancarlo Giorgetti, che a pagina 5 del Sole 24 Ore fa un'intervista a dire: il Carroccio non c'entra, è una vicenda che nasce e finisce dentro il Consiglio di Amministrazione di Unicredit. Ma certo, questo tema, il ruolo delle fondazioni, il ruolo dei politici locali, la voglia anche dei localismi rispetto a una grande banca internazionale, con uno sguardo internazionale, è il tema che tratterà anche Oscar Giannino e che è il tema sul piatto della discussione dopo la vicenda della guerra all'interno di Unicredit. Prima di andare a meteo e traffico e pubblicità, poi rientrare a parlare di altro, della politica, vi segnalo solo quello che Repubblica e Il Fatto Quotidiano danno come possibile. E se il banchiere fosse quel papa straniero a cui si è riferito Veltroni per il PD? Sappiamo che Alessandro Profumo ha votato due volte alle primarie, la moglie Sabina Ratti è stata anche candidata alle primarie del PD, può essere lui l'uomo del PD. Questo per Repubblica, ma anche per il fatto, la tentazione Profumo, il senso dei democratici per il Papa straniero, la ricerca storica del premier banchiere. Sarà Profumo quell'espressione della società civile a cui faceva riferimento Veltroni e che potrebbe candidarsi con il Partito Democratico? Chissà, c'è anche questo sui giornali. Ora ci fermiamo. Alle 7:35 minuti siamo ancora in diretta. Allora a parlare delle banche, come detto Oscar Giannino ne parlerà di Unicredit. Un'altra banca, certamente terremotata ieri. Prima pagina di Finanze e Mercati del Sole 24 Ore è lo IOR del presidente Ettore Gotti Tedeschi, che è indagato come vertice insieme al direttore generale Paolo Cipriani per una serie di omissioni rispetto agli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa antiriciclaggio. Ovviamente tutti i giornali tirano fuori subito la vicenda Marsincus del passato. Ettore Gotti Tedeschi dice: siamo sotto attacco per un errore, ricevere questo provvedimento della magistratura italiana è stato mortificante, sono profondamente umiliato, dice a Carlo Marroni, intervistato per il Sole 24 Ore. C'è anche, segnalo, un editoriale di Avvenire, poche righe, a firma MT, dunque il direttore Marco Tarquinio, molto duro, un evento mozzafiato, lo definisce a pagina 2 di Avvenire. Un evento che ha suscitato legittima perplessità, motivate preoccupazioni, in primo luogo per il manifesto, stridente, inconciliabile contrasto tra ciò che la Chiesa Cattolica e le sue istituzioni sono e fanno e le realtà e le immagini evocate da concetti come riciclaggio e terrorismo. Ecco spiegati l'incredulità, lo sconcerto per quello che è accaduto ieri, ecco spiegato il senso di profonda umiliazione provato e sobriamente manifestato dal presidente Gotti Tedeschi, sentimenti che agitano e toccano ogni osservatore sereno dei fatti e che accompagnano un civile allarme e insistenti e gravi interrogativi sull'inspiegabile offensiva drammatizzazione decisa da taluni magistrati romani. Molto duro dunque anche Avvenire con Marco Tarquinio, ma ripeto, alle 9 Oscar Giannino, politica e banche, il caso Unicredit e non solo, in primo piano, ne parlerà in 9 in punto. Veniamo alla politica, dove oggi, come anticipato ieri, c'è un test importante in Parlamento, il test Cosentino per la maggioranza, come scrive Barbara Fiammeri sul Sole a pagina 17. Cioè si vota se concede l'autorizzazione a dare alla magistratura le intercettazioni dell'ex sottosegretario Nicola Cosentino, che deve rispondere delle accuse di concorso esterno in associazione camorristico. E sarà una prova per i finiani. Come voteranno i finiani? Berlusconi su Repubblica dice: il Future Libertà è già spaccato, avrebbe confidato ieri, già 16 voteranno contro queste intercettazioni, già 16 sono pronti a votare con noi su Cosentino. Cosentino che fa un'intervista proprio a Repubblica con Cita Sannino: non ci sto ai giochetti, intendo sottrarre ogni alibi ai nuovi legalitari che abbondano nella schiera di Future Libertà, cioè i finiani, voglio togliere argomenti a quella offensiva strumentale perché vedo nella formazione di Fini troppi farisei, così dice Cosentino, del tutto indulgenti verso se stessi, implacabili con altri. E poi dice: queste intercettazioni non provano nulla, queste intercettazioni le mettiamo pure a disposizione, le mettono pure a disposizione della magistratura perché il tema sono assolutamente irrilevanti, dice Cosentino. Un altro punto importante, ieri se ne parlava, è quello che è avvenuto in Sicilia. Ieri ne avevamo parlato di cosiddetto laboratorio Sicilia per alcuni, dove Lombardo, eletto col centrodestra, ieri si è presentato dopo una serie di ribaltoni, cambi di maggioranza. Il presidente della Sicilia Lombardo ora è retto nella sua giunta da PD, dai finiani di Future Libertà, da alcuni dell'UDC, insomma un cambiamento sicuramente di appoggio politico. Via il terzo polo di Lombardo, giunta di tecnici con PD e futuristi, tuona dalle pagine del giornale il ministro, siciliana peraltro, Stefania Prestigiacomo, un caso vergognoso in Sicilia, tradito il mandato popolare. E dice in questa intervista a Emanuela Fontana: forse sotto c'è un'inchiesta che, di cui si è vociferato a Catania, che potrebbe anche coinvolgere indiscrezioni, visto un'inchiesta che potrebbe coinvolgere anche appunto il presidente della Sicilia Lombardo. Con le prudenze del caso, col rispetto dovuto alla magistratura, trattandosi di inchiesta giudiziaria in corso, ma gli interrogativi sono tanti, dice Stefania Prestigiacomo, cioè che cosa è successo e perché il perché di questa, di questo appoggio da parte della sinistra. Insomma, la politica oggi si muove su questo fronte, no? Il giorno di votazione di Cosentino, noi ne parleremo anche nella nostra intervista, ospiteremo Benedetto Della Vedova, che è un finiano onorevole, come voteranno i finiani e anche quello che è successo in Sicilia. Anche se il premio per aver detto chiaramente la sua idea, oggi lo vince nettamente il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, del Partito Democratico. Ieri si è presentato in un talk show alla radio, a Radio Popolare, e ha detto questo. Attenzione, udite bene. In un paese di puttanieri, noi siamo governati da un noto puttaniere, Silvio Berlusconi. Eh beh, è più esplicito di così. Poi in serata dice: guardate, io andava messa nel contesto, perché mi avevano fatto una domanda su una lettera anonima che gira in Toscana, che parla di speculazioni, di accuse pesantissime a luci rosse, di giro di sesso e promozioni nelle quali sarebbero coinvolti funzionari regionali, tutto da negare, ma confermo, in un paese di puttanieri noi siamo governati da un noto puttaniere che si chiama Berlusconi. E poi, raggiunto dal Corriere, dice: confermo tutto, la frase non va estrapolata, ma notoriamente il Presidente del Consiglio è un puttaniere. Ma mi scusi, proprio questo termine mi sembra difficile che non sia così, come lui stesso del resto mi pare proprio si definisca. Insomma, è una frase che certo è un po' tra il gossip più che la politica, però la frase è esplicita. Il governatore Rossi attacca il premier sulle donne, questo è il titolo del Corriere della Sera, pagina 12, con questa frase che certo farà discutere. Io voglio andare su Giornale e Libero, perché ormai è diventata politica ovviamente l'inchiesta sulla casa di Monte Carlo, perché sia Giornale e Libero oggi aprono con titoli bomba. Il Giornale ha 9 colonne, ecco la prova. Fini non ha detto la verità. La prova, che c'è anche su Libero, la casa è del cognato. Viene proposta addirittura sul Libero così: risolto il giallo di Monte Carlo. Pubblicano entrambi i giornali un documento. Il documento è a firma del ministro degli esteri di Santa Lucia, del governatorato di Santa Lucia, dove ha sede la società anonima, la Timara Ltd., che è proprietaria di questo appartamento di Monte Carlo abitato, affittato a Giancarlo Tugliani, il cognato di Fini. Ebbene, in questo documento firmato Rudolf Francis e pubblicato da alcuni giornali locali, il Diario, il Nacional, si dice che, testuale, il beneficiario e proprietario della società Timara Ltd., che ha quell'appartamento, a quanto ci risulta è il signor Giancarlo Tugliani, che ha dato mandato per conto della società di utilizzare i servizi di Jason Sam e Corpac Services USA. La prova decisiva: l'appartamento è di Tugliani e, caro Gianfranco, ora ridiamo noi. Questo è il titolo di Libero con il vice direttore Franco Bechis. Questi sono i due titoli di Giornale Libero che oggi insistono dunque in questa campagna mediatica e che è diventata una campagna anche politica riguardo alla casa di Monte Carlo. Oh, non è politica neanche questa, ma certo riguarda il Presidente del Consiglio. Oggi troverete anche articoli sulla vicenda del suo divorzio da Veronica Lario. Berlusconi sfratta Veronica da Macherio, sfuma l'accordo a dicembre, andranno in tribunale. Questo è Emilio Randaccio su Repubblica, ma ne scrive anche il Corriere della Sera, ne scrive anche La Stampa. Vale a dire, sarebbe sfumato l'accordo. Un passo ufficiale con distanza enorme tra le parti, insanabile, sfumato l'accordo che era stato dato per certo prima, cioè il Premier aveva accettato di versare alla signora Veronica Lario 300.000 euro mensili a titolo di mantenimento e di lasciarle l'usufrutto della villa Belvedere a Macherio, dove Veronica Lario abita da 20 anni. Nessuno però ha bussato al sesto piano nel frattempo del Palazzo di Giustizia e trascorsi 5 mesi, dunque il giudice Gloria Servetti ha fissato l'udienza che porterà non più alla separazione consensuale ma alla separazione giudiziale. A quel punto Veronica Lario ha abbandonato la casa di Macherio, oggi abita, secondo i giornali, all'hotel della Ville di Monza, proprio che dà sul parco di Monza, sulla Villa Reale di Monza, e Berlusconi sfratta Veronica da Macherio, questa la presenta così Repubblica. E allora ci fermiamo per le informazioni sul traffico, poi vediamo altre segnalazioni molto interessanti, anche il tema del nostro sondaggio dai giornali. Gli affitti d'oro di Montecitorio costano 150.000 euro al giorno. Questo è il titolo di un articolo su Repubblica, firma Carmelo Lo Papa. Ebbene, ieri è stato approvato il bilancio della Camera, in un'aula ovviamente semideserta. E Carmelo Lo Papa scrive: la scoperta sa di acqua calda, ma la cifra al dettaglio è una novità e soprattutto del clamoroso. I 630 deputati italiani non costano solo i 14.000 passa euro al mese tra indennità, diaria, rimborsi spese, ma 22.000 euro, non il doppio ma giù di lì. E se la denuncia non ha suscitato clamore è perché è avvenuta in una sala di Montecitorio deserta lunedì pomeriggio, quando si parlava del bilancio interno 2010 della Camera. Come sempre un affare tra intimi. Che il re è nudo lo ha proclamato la radicale Rita Bernardini. Anche i deputati questori guidati dal PDellino Francesco Colucci non hanno potuto far altro che ammettere la debacle. Vi rendete conto o no, colleghi, che tra palazzi e uffici Montecitorio spende ormai in affitti 54 milioni di euro l'anno, ovvero 147.000 euro al giorno? Questo è il questore Colucci che parla, uno dei tre questori. Sapete questo cosa vuol dire? Che ciascun onorevole, ciascuno di noi, costa 8.000 euro al mese. È evidente che qualsiasi italiano con quella cifra in mano si affitterebbe una stanza perfino più grande e comoda rispetto a quelle che concedono e soprattutto si pagherebbe anche la segretaria. Dal bilancio della Camera, 150.000 euro al giorno, a dire la verità 147.000 euro al giorno ci costano alla Camera e quindi a tutti noi, al Paese, al mantenimento della Camera, le spese degli affitti degli immobili, gli affitti d'oro di Montecitorio. Lo trovate su Repubblica. Trovate anche molto del nostro sondaggio. Noi parliamo di talk show televisivi. Oggi alle 12 Santoro fa la conferenza stampa perché domani riparte Anno Zero e c'è questa circolare del direttore generale della RAI, Masi, che dice basta il pubblico che non può applaudire prendendo parte così attiva. Ci vuole il contraddittorio, ci vuole il conduttore che deve essere terzo rispetto alle parti. Ormai l'endorsement dei finiani per Santoro è sdoganato. Sapete, Santoro oggi fa un'unica intervista, in genere non parla mai prima delle conferenze stampa, a che cosa? Al Secolo d'Italia, vale a dire il quotidiano diretto dalla finiana onorevole Flavia Perina. Nella RAI dei bavagli viviamo tutti sotto controllo, così Michele Santoro, rischiamo di avere una televisione di regime, fa un'intervista di ben 2 pagine, pagina 6 e 7, sul Secolo d'Italia. Il nuovo giallo invece per quel che riguarda la RAI, come denuncia anche il Fatto Quotidiano, è che è stata bloccata la pubblicità di Parla con me, dove Max Paiella, l'imitatore, fa il verso al direttore del TG1 Minzolini, perché Minzolini si sarebbe arrabbiato. Questo il retroscena. Vabbè, io nelle varie segnalazioni vi devo segnalare che cosa? Un articolo di cronaca riguardante la vicenda di questi due genitori che sono stati uccisi nel garage di Carpi in Emilia-Romagna, poi sono stati buttati nel lago di Garda dal figlio. Questi due coniugi uccisi e gettati nel lago, il figlio sono stato io. Ne parla in due pagine, 14 e 15, La Stampa. Io vi segnalo assolutamente l'articolo di Paolo Colonnello inviato a Carpi. Nella girandola degli orrori della grassa provincia padana, la storia capitata tra Peschiera del Garda e Carpi ha i contorni indefiniti della banalità e della follia. Un figlio adulto un po' strano, due genitori anziani e malati, la noia e il disturbo di doverli accudire in una convivenza senza futuro, fino all'ennesima lite. L'ennesimo sbuffo, un'esplosione d'odio, tutto qui. Nessun mistero di soldi, sesso, angherie, solo il peso di una gabbia familiare, un macigno per alcuni. E racconta Paolo Colonnello dell'incredibile, surreale colloquio che il figlio di queste due persone ha fatto con i carabinieri, Daniele Bellarosa, fresco pluriomicidio degli anziani genitori. Sentite, quando si sono presentati i carabinieri, cosa ha detto? Uè, allora, dove sono i tuoi genitori? Ale, un pezzo che non vedi mamma e papà, ha detto ieri mattina. Ma sei sicuro? Dov'eri venerdì? A Riccione con gli amici. Allora seguici, dai, andiamo in spiaggia a controllare. E la risposta del ragazzo, ai carabinieri. Ma no, dai, meglio che non perdiamo tempo, sono stato io. Li ho uccisi i miei vecchi, tentate di capire, li dovevo curare da solo, non li sopportavo più. Li ho portati giù nel box e li ho strangolati. Prima mio papà. L'ho portato giù e gli ho stretto una cordicella attorno al collo, di quelle che si usano per legare i salami. Poi è toccato alla madre, sono risalito di corsa e le ho detto «Mamma, scendi, che il papà è caduto e si è fatto male». Poi li ha uccisi, li ha caricati su una Volvo azzurra ammaccata, li ha buttati nel lago di Garda, quindi è tornato a casa tranquillo. Tanto i suoi vecchi lo sapevano tutti che erano malati, che girassero o non girassero in quartiere. Era lo stesso. E suo fratello poi non si faceva vivo da un pezzo e lui e i carabinieri. Ragazzi, sapete, dovevo fare tutto io. L'orrore fatto in casa, non li sopportavo più, ve lo segnalo, è l'articolo di Paolo Colonnello che racconta questa tragedia familiare. Voglio solo chiuderla, abbiamo sentito nel GR Sport, ma voglio ripeterlo. Ve lo ricordate? Byron Moreno, arbitro dell'Ecuador, mondiali del 2002 in Corea e Giappone, quello che con quella faccia spiritata mostrò il cartellino rosso, l'espulsione a Totti nei supplementari, poi uscimmo dalla Corea, eliminati dalla Corea del Sud, non solo per l'arbitro. Ebbene, una parabola finita come Moreno arrestato con 6 kg di eroina nelle mutande. Ha cercato di passare i controlli all'aeroporto JFK di New York con 6 kg di eroina nelle mutande. L'ex arbitro ecuadoriano Moreno, racconta il Corriere della Sera, è stato arrestato, ovviamente, è un commentatore sportivo oggi, è stato preso e ingabbiato, ne parla pagina 55 dello Sport, il Corriere, davvero una fine ingloriosa per quel cartellino rosso. Ci fermiamo per il GR.